Bene, allora, prima di tutto grazie Michele di essere venuto. Allora, il processo con cui Michele è venuto qua è molto semplice. Io ho letto il libro, mi è piaciuto veramente tanto e ci siamo chiesti se per caso non si potesse invitare l'autore direttamente a parlarcene un pochettino. Allora, passiamo proprio direttamente all'oggetto della presentazione. Se puoi parlarci un pochettino appunto di questo romanzo, introdurci un pochettino nella trama e nell'atmosfera, se vuoi, con le tue parole. Ok, beh, innanzitutto grazie mille per l'invito, grazie per aver letto il libro, che non è mai scontato, quindi grazie per aver letto il libro, grazie per averlo apprezzato. Due volte, ci tengo questo, a non solo non è scontato, ma è fin troppo, esatto, quindi è sono onorato. E grazie a voi per essere qui. Allora, Prima della rivolta è un noir d'anticipazione, io lo chiamo. Significa che la storia principale, la storia che porta avanti la narrazione, che porta avanti il libro, è una storia crime, è un giallo, c'è un omicidio, l'omicidio di un uomo molto illustre, e c'è un commissario capo che si troverà a indagare su questo omicidio. D'anticipazione perché non è ambientato ai giorni d'oggi, ma è ambientato nel prossimo futuro. In una Milano del, non viene esplicitato nel libro, ma viene esplicitato in quarta, quindi non è uno spoiler. Sì, fa ridere questa cosa perché è scritto, cioè c'è scritto l'anno 2045, ma solo in quarta di copertina, perché non compare per tutto il resto del tempo. Sì, è stata una cosa su cui ci siamo arrovellati insieme all'editore fino all'ultimissimo momento prima di andare in stampa. Perché tu nell'ideazione non l'avevi specificato. Non l'ho specificato, ma c'era. Cioè, okay. L'anno è sempre stato 2045, perché poi magari ne parleremo nel dettaglio. Nel momento in cui tu scegli di ambientare una storia in un mondo estremamente realistico, ma spostato leggermente in avanti, devi avere ben chiaro qual è l'anno e il luogo in cui questa storia è ambientata, perché altrimenti rischi di fare degli scivoloni di vari tipi. Quindi per me è sempre stato quello l'anno, e da lì sono andato a ritroso per costruire anche la storia dei personaggi, perché il nostro personaggio principale, per esempio, che è il commissario De Santa, appunto, che si troverà a indagare su questo omicidio, ha 40 anni, di conseguenza lui è nato adesso, cioè c'è, quindi per costruire una biografia, una backstories, anche se poi non esce nel libro adeguata, tu devi sapere l'anno, certo, devi averlo quantomeno in testa, perché se no, cioè, devi sapere cosa ha fatto lui durante il periodo del Covid, quando ha finito la scuola, cosa ha fatto l'università. Quindi, tornando alla tua domanda iniziale, appunto ambientata nella Milano del 2045, la storia si sviluppa a partire appunto da un omicidio. L'omicidio di un uomo molto importante, ricco, Cavalier Balsecchi, che è un pioniere dell'energia solare, nel senso che nella nostra epoca attuale, quindi nel 2020, 2024, insomma, in questi anni, per primo ha intuito le potenzialità dell'energia solare per la transizione. E nell'epoca in questa epoca Milano è diventata una città totalmente che funziona totalmente energia solare, però in un regime monopolistico, quindi tutta per l'energia solare del Cavalier Balsecchi. Il nostro commissario capo, che torna a Milano dopo 5 anni di esilio, come lo chiama lui, sulle Alpi, dove è stato cacciato, poi lo scopriremo durante il libro il perché, si trova a indagare da subito su questa morte. Indagando su questa morte lui entra in contatto con tutta una serie di persone, personaggi e sociali differenti, tipi sociali differenti che popolano questo mondo del nostro immediato futuro. Quindi si trova a indagare tra, appunto, nella sua azienda, si trova a indagare nel culto Chiesa dell'Apocalisse, che ha preso il sopravvento in questi anni e di cui il Cavalier Balsecchi era una delle personalità più importanti, e via discorrendo. Tutto questo succede in un periodo molto importante, perché è la settimana in cui si stanno preparando le commemorazioni per l'omicidio che c'è stato di Gulliver Sacco, che è un ragazzo che durante delle manifestazioni di piazza di 5 anni prima è stato ucciso dalla Digos. E quindi tutta questa sua indagine si sviluppa in una città estremamente in tumulto, e scossa da pulsioni contrastanti tra le persone che stanno organizzando queste manifestazioni, tra la Digos che sta serrando le fila, e quindi questa invece è la linea più politica, se vogliamo, che è la linea di Salim Barthez, che è il miglior amico del commissario De Santa, ma è anche il capo il leader del, del movimento degli antagonisti, ed è che è un movimento, possiamo, per semplificare, possiamo dire di sinistra, di socialista, il nuovo socialismo, come viene chiamato nel libro. E allo stesso tempo è il direttore del campo profughi di Pioltello, che è un grande campo profughi che c'è appunto a Pioltello, dove chi vuole entrare in città deve, se non ha il permesso d'ingresso e quindi un lavoro, deve soggiornare per un tempo indefinito, più o meno. Un campo profughi che però, per dare l'idea, comunque un'idea un po' più precisa dell'ambientazione, ospita centinaia di migliaia di persone. Sì. Insomma, un grosso campo profughi. Ok, comunque, allora, dall'introduzione che vi ha fatto Michele, potrete intuire che, insomma, la realtà che è stata costruita nel romanzo è ipercomplessa, un'ambientazione che appunto sviluppa diversi temi del reale. Infatti, una delle sensazioni che io avevo mentre leggevo era quello sì, di star leggendo una distopia. Infatti, cioè, il termine che ho usato in tutti i post è stato distopia, finché non ho visto la tua presentazione di Napoli, appunto, in cui introducevi questo tema, questa caratteristica dell'anticipazione, più che della distopia. In questa opera di anticipazione che hai fatto, ci sono tanti temi che, volendo, sono, diciamo, abbastanza accessibili, appunto, questo enorme campo profughi fa molto riferimento, se vuoi, alla crisi dei migranti, anche al trattamento dei migranti di questi tempi, questo potenziamento della Digos, un po' la repressione del dissenso a cui stiamo assistendo. Ma ci potresti parlare un po' di questa chiesa dell'Apocalisse? Come ti è venuto in mente? Perché, cioè, per carità, se puoi parlarci anche un po' più nello specifico di questa chiesa, perché è stato l'aspetto che più mi ha, diciamo, mi ha incuriosito e mi ha dato, se vuoi, anche un po' di pepe alla narrazione. Allora, diciamo, anche a livello di immaginazione era la cosa un po' più particolare. Sì. Ma di difficile, cioè, difficile capire qual era il nesso, se vuoi, con il reale. La chiesa dell'Apocalisse, infatti, è stata... ho notato, parlando appunto in quest'anno che ho portato in giro il libro, ho parlato appunto con chi l'ha letto, con i lettori, con i presentatori, con altre persone, è l'aspetto che ha più incuriosito e appassionato gli abituali lettori di science fiction, okay, di fantascienza pura, perché è l'aspetto probabilmente meno realistico, quello un po' più in cui la speculazione va un po' per la maggiore, perché, per dirlo in poche parole, la chiesa dell'Apocalisse è una religione dominante in questo momento, quindi nel 2045, nel paese. Ha preso l'avvio come una setta che ha preso piede dopo la morte dell'ultimo papa, che è Papa Francesco, fondamentalmente, assieme a delle altre sette. Poi a poco è diventata quella più importante ed è ora professata dalla gran parte delle persone. Qual è le due caratteristiche principali? Che è una religione matriarcale, di conseguenza tutte le cariche più importanti, anzi tutte le cariche sono gestite dalle donne, e in secondo luogo il cardine è la non procreazione. Di conseguenza il non procreare, perché in un mondo come il loro, procreare significherebbe mettere al mondo degli esseri umani in più, in un momento in cui la Terra avrebbe bisogno di esseri umani in meno, da un certo punto di vista, e dall'altro punto di vista mettere al mondo delle persone che si trovano a vivere in un contesto depresso, in un contesto in cui non vorresti vivere. Quindi quello è il cardine attorno a cui si è sviluppata la religione. Poi la religione ha tutta un'altra serie di aspetti, che sono degli aspetti anche più ecologisti, se vogliamo, un aspetto più panteista anche, o degli altri aspetti. C'è questa scena della messa in cui vengono pronunciati tutti i nomi delle specie animali che si estinguono, cioè non lo so. Anche la cattedrale dell'Apocalisse è un grattacielo che è stato sviluppato all'interno dello Scalofarini. Io me lo sono immaginato come un enorme piramide, però cioè quasi ad ago, ecco, non so, ha quasi anche una piramide forme, completamente ecco. Nera, esatto. In cui tu non puoi vedere all'interno, ma dall'interno vedi l'esterno, con questa sala enorme al centro e questi cerchi. Questi cerchi concentrici che vanno verso l'alto e nel punto più in alto c'è la la priora con, esatto. Con la luce. Esatto, quindi per dare anche un po' di visività alla questione. No, questo tra l'altro mi viene da dire riuscitissimo. Ok, allora, quindi comunque dalle tue parole... Comunque scusa per concludere, perché effettivamente non ho concluso la tua domanda. E quindi è un po' chiaramente rispetto ad altri aspetti del libro, che per quanto comunque siano alcuni più calcati, alcuni meno, secondo me sono tutti plausibili nell'ottica di un mondo del prossimo futuro. Questo è probabilmente l'unico in cui io mi sento di aver più ceduto il passo un po' alla fantascienza, alla pura fantasia, nel senso che se filosofie di questo tipo già esistono, nel senso quindi non la persone e gruppi che professano la non procreazione ci sono. Non strutturati in questo modo, ma ci sono dei simboli, ci sono un certo misticismo legato a questo, cioè esistono già, sono chiaramente dei gruppi molto minoritari. E io non mi aspetto che da qui a 25 anni diventino così tanto maggioritari, però dentro un mondo come questo, che se noi possiamo immaginare il nostro futuro come un futuro più o meno, considerando che sarà molto probabilmente, anzi al 99% il futuro comunque più negativo di quello attuale, noi lo possiamo immaginare poco negativo, abbastanza negativo e molto negativo. Chiaramente questo spinge un po' di più, che è il motivo per cui tu prima hai tirato in ballo la distopia, un po' di più per tanti versi verso un pochino più negativo, sono un po' più spinti in avanti. In un mondo di questo tipo io mi aspetto che comunque una religione come questa si possa avere un ampio riscontro, certo. Per tutti i motivi di cui si diceva prima, però già esistono comunque cose così piccole, minoritarie, molto minoritarie, ma esistono già nel mondo contemporaneo. Chiaro. No, poi tra l'altro secondo me, cioè come dire, se vuoi il fine letterario di questa chiesa, cioè, quindi il fine che ha all'interno del romanzo, è stato quello di mettermi proprio il dubbio, ma in una situazione del genere sarebbe meglio estinguersi o sarebbe meglio lottare per cambiare, no? Quindi da questo punto di vista secondo me è super efficace nel rendere... Sono le forze che muovono questo mondo, esatto. C'è appunto Selim Bertez e i suoi nuovi socialisti, appunto gli antagonisti, il movimento antagonista che vuole cercare di cambiare la società in cui si è per costruire qualcosa di nuovo da capo, vuole agire per quanto, proprio per il fatto di essere in un mondo negativo, in un mondo sbagliato per tanti versi, che sta andando verso il peggio, vuole influire sull'immediato. Ci sono appunto la Chiesa dell'Apocalisse che invece, partendo dai presupposti simili se vogliamo, però vuole uscirne. Fondamentalmente vuole uscirne, pensare a dell'altro. La priora è anche una persona che a livello appunto filosofico morale molto illuminata, anche se vogliamo, nel senso semplicemente non si occupa della società, e quindi anche sotto di lei ci sono possono svilupparsi varie correnti. Poi mi viene da dire che più che non preoccuparsene, si preoccupa di azioni di predominanza. Quello sicuramente, comunque, cioè, quel... il cavalier Valsecchi è uno dei massimi esponenti civili di questa religione. Certo, come tutte le religioni che poi diventano religioni comunque non di Stato, ma perché quella non è religione di Stato, perché lo Stato è un po' più sfilacciato anche se rispetto al nostro, però comunque che diventano delle potenze anche economiche, sì. Chiaramente hanno tutto l'interesse a far sì che comunque lo status quo rimanga, esatto. Quindi ci sono da una parte delle motivazioni che possono essere etico-filosofiche, dall'altra delle motivazioni che sono molto più terrene. Quindi da questo punto di vista, cioè, si inserisce benissimo secondo me all'interno della società che costruisci. E adesso hai fatto riferimento a dei movimenti già religiosi che esistono, e questo mi permette di introdurre un altro punto, ossia lo studio che è stato necessario per costruire tutta questa realtà, che per carità è d'anticipazione, quindi tu ti sei basato su delle cose che vedevi, per carità, però cioè comunque per svilupparle e per creare, diciamo, l'universo, immagino che sia stato necessario tanto studio, tanta formazione. Purtroppo, sì. No, e volevo chiederti, cioè, un po' questo processo di studio com'è stato? Cioè, se è stato tutto a priori, se invece hai buttato giù un po' del tuo universo e poi l'hai corretto a seconda di quello che la realtà ti offriva, qual era l'equilibrio fra realtà e finzione, come hai voluto mantenerlo? Questo. Ma guarda, la cosa più difficile da questo punto di vista è il fatto che mentre tu, che il processo di scrittura di un libro, tanto più un libro anche un certo numero di pagine, è un processo lungo. Mm-hmm. E poi è lungo anche il processo che poi porta alla pubblicazione di un libro, perché tu finisci il libro, poi devi cercare l'editore interessato, poi con l'editore trovi l'editore interessato, poi c'è un processo di editing insieme all'editore e poi un processo che porta alla stampa. Quindi c'è tutto un lasso di tempo, di anni, dal momento in cui tu hai l'idea al momento in cui il libro arriva in libreria. Nel tuo caso parliamo di 4 anni. Nel mio caso di 5. Sì, no, 4, sì. Sì, 4 anni. 4 anni, sì. Sì. Sì, l'idea base è stata tipo nella fine estate, inizio autunno del 2019. Mm-hmm. Quindi... E in questi anni, appunto, proprio anche per questo fatto, e in questi anni poi il mondo in cui tu stai vivendo continua a cambiare. Però se tu stai scrivendo qualcosa di impiantato nell'immediato futuro, tu ogni cambiamento che c'è devi cercare di buttarlo dentro in qualche modo, perché altrimenti... Però a un certo punto poi devi smettere, perché sennò continui all'infinito. Per esempio, una questione che secondo me è lampante nel libro l'intelligenza artificiale è paradossalmente meno sviluppata di quella che c'è adesso. Mm. Perché nel momento in cui il libro è stato scritto e tutto questo processo se ne parlava molto poco, sembrava una questione molto futuristica. Certo. Non sembrava che potesse andare a impattare così tanto nella nostra realtà in così poco tempo. Mm. A un certo punto, chiaramente, poi OpenAI è uscito e via, io potevo ancora cambiare, però a un certo punto devi dire basta. E quello è il momento in cui ti fermi, perché non puoi continuare a cambiare tutto. Però per esempio nel libro c'è molta precisione topografica e toponomastica della città di Milano, e io, per rendere il più realistico possibile, su quello mi sono basato su tutti i progetti reali della città, cambiandolo. Poi ovviamente alcune cose ho lavorato di fantasia, dove non c'erano i progetti o dove mi serviva che fossero un po' diversi. Però io, nel momento in cui arrivavano dei nuovi progetti, dei cambiamenti rispetto ai progettatori, cambiavo la parte. Poi a un certo punto anche lì dovevo smettere. Per esempio, c'è una piccola parte ambientata a San Siro durante una partita del Milan, e lì è ambientato nel progetto del vecchio, il vecchio progetto, ossia quello di tenere in piedi il San Siro attuale, il Meazza, e costruirci di fianco un altro stadio. A un certo punto questo progetto è stato accantonato, però attualmente, adesso a un anno dall'uscita del libro, comunque non c'è un progetto definitivo. Certo. Quindi a quel punto io ho detto va bene, teniamo quel punto fermo, per me era così, tanto può essere qualsiasi cosa a questo punto. Queste sono due cavolate che non vanno a inficiare il tutto del mondo, però per far capire come il futuro prossimo è il setting più complicato da gestire, perché ti cambi in continuazione sotto le mani mentre lo stai scrivendo. Certo. Io, il mio punto fermo è sempre stato la trama, la storia. Mm. La storia, i personaggi, e attorno a questa storia e i personaggi io sapevo dove doveva andare, dove partiva, da dove arrivava e cosa più o meno succedeva in mezzo. Tutto il resto è stato poi di volta in volta allargato e diminuito, anche perché nella versione pre-stampa, quella prima dell'editing, era 100.000 battute in più di 100.000 battute in più, quindi era ancora più corposo. Poi ho tolto tutta una serie di cose. Di descrizioni o di trama? Di più? Di un po' di tutto, un po' di cose inutili, proprio di battute inutili, riempitivi, cose di questo tipo. Un po' ho dovuto anche togliere qualche descrizione, ho voluto togliere, non è che me ne abbia dato qualcuno, ho provato a togliere qualche descrizione, ce ne sono già tante, qualche cosa che a me piaceva, perché appunto sono un appassionato di topografia e quindi mi piaceva si percepisce dentro, tantissimo, mi piaceva metterci dentro delle altre cose, però io dovevo toglierle. Cioè io ho fatto uno degli ultimi capitoli, a un certo punto, che dovrebbero essere molto veloci, anche un po' adrenalinici, sì, eccetera, a un certo punto loro passano sotto queste torri, questi orti verticali, sì, queste sono 4 torri all'ex macello dove coltivano gli ortaggi per la... E io lì, in un momento in cui non serviva, però io ci ho pensato una paginetta di descrizione della cosa, ma non serviva ovviamente, però mi piaceva che ci fosse, e però sono state 5 righe poi, cioè, giustamente. Quando faranno la graphic novel, sì, poi tirarle fuori. Serviranno per la descrizione. E quindi io la trama ce l'ho sempre avuta in mente e sapevo dove doveva andare, sapevo, okay, la fine è sempre stata questa, sia la fine della storia gialla sia la fine della storia politica sono sempre state queste, i personaggi più o meno avevano sempre quel percorso con qualche piccolo aggiustamento, il mondo attorno chiaramente un po' più studiavo perché poi studi, quindi leggi dei libri che appunto ambientati in un futuro, leggi altri libri, narrativa, quindi un po' ti cambiano le idee e poi a poco tu chiami. Per esempio, io sono partito dall'idea, per me quello che era importante era un po' denunciare una deriva della città di Milano che io vedevo nel contemporaneo che non mi stava piacendo proprio come direzione. Non sono mai partito con l'idea di fare scriviamo un libro in cui viene descritta la crisi climatica in atto. Volevo soltanto scrivere un libro per denunciare una certa situazione a Milano. E dopodiché, però, nel momento in cui tu metti la tua lente di ingrandimento verso l'immediato futuro, l'iperoggetto, l'elefante nella stanza, la cosa è la crisi climatica, quindi poi tutto deve essere gestito attorno a questa, volente o nolente, anche se non lo vuoi, deve esserci. Certo. Quindi quest'ultima cosa che hai detto è interessante alla luce di uno stimolo che mi ha dato il professore là in fondo un paio di giorni fa, ossia questo articolo di Ghosh, che è uno scrittore antropologo indiano, potremmo definirlo. Il professore mi ha fatto veramente imbarazzare. L'assegnista di ricerca là in fondo. Comunque ha scritto questo articolo sul Guardian qualche anno fa, in cui lamentava l'assenza nella letteratura di riferimenti al cambiamento climatico. La sua, cioè, no, non era così netta la critica era: mancano nella letteratura generale, diciamo, nella lettura generica, dei riferimenti al cambiamento climatico, e nel momento in cui vengono inseriti, immediatamente quell'opera letteraria è come se perdesse dei punti, no? Perdesse dei punti di serietà, venisse relegata a un sottogenere, appunto, climate fiction, science fiction, eccetera, e appunto perdesse un po' di ampiezza del messaggio, se vuoi, è come se non ci potessero essere riferimenti al cambiamento climatico, che comunque è un fenomeno pervasivo, in, per esempio, un romanzo giallo, come che è l'operazione che hai fatto tu. Tu l'hai percepita, me lo chiedevo mentre leggevo questo articolo, tu l'hai percepita questa assenza di serietà, magari negli occhi delle persone che giudicavano il tuo libro, magari, o che hai incontrato in quest'anno? Questa è una domanda molto interessante e molto complessa, che si può dividere in vari punti. Okay. Nel senso, partendo da Ghosh, Ghosh 8 anni fa, se non sbaglio, ha scritto La grande cecità, che è il libro un po' di partenza della moderna climate fiction. Okay. È un saggio in cui appunto lui lamenta il fatto che nelle opere di narrativa quella che è la sfida più grande, non solo la sfida, però proprio il tutto più grande in cui siamo immersi, non ha spazio, o comunque ne ha molto poco. Quindi lui si chiedeva, da un lato, perché nelle opere di narrativa non ci fosse quasi mai spazio per la crisi climatica, ma non per raccontare la crisi climatica, ma perché non ci fossero eventi climatici estremi, perché non ci fosse un'esondazione, perché non ci fossero tante cose, e venissero trattate invece sempre soltanto come casi eccezionali, quando invece ormai è il contrario. E in secondo luogo lui diceva, lamentava il fatto che l'unico ambito in cui questi eventi venissero trattati era la science fiction, oppure il fantastico, surreale e via discorrendo. E lui da persona comunque che non viene dalla fantascienza lo metteva in modo molto negativo questo, lo diceva: ma perché nella letteratura quella considerata più seria, ossia quella che poi va ai premi, quella che è in libreria nella sezione normale, non quella nella sezione dietro, quella buia in fondo in cui devi volerci andare tantissimo, esatto, perché non viene trattato? è stato una mezza bomba questo libro, una mezza bomba, ok, tra gli addetti ai lavori interessati a queste cose, okay. Quindi non un quarto di bomba, quindi esatto, è stata una bombetta, però ha fatto muovere un po', ha smosso un po' le acque, nel senso che con i tempi lunghi della letteratura, quindi poi è passato un anno, passati due anni, poi magari in Italia sono nati quattro anni dopo, eccetera, hanno iniziato sia a cimentarsi con le questioni climatiche anche scrittori tra virgolette considerati appunto seri, quindi non attraverso la lente del genere, e sia allo stesso tempo libri considerati invece libri invece distopici, di science fiction, di quel tipo, a raggiungere un pubblico un pochino più ampio rispetto al pubblico quello che avevano all'inizio, quello degli impallinati del genere. Mm-hmm. Questo doppio movimento ha fatto sì che quella che potremmo appunto definire in maniera un po' impropria come climate fiction è diventato un qualcosa un pochino più conosciuto quantomeno, e di cui si sta iniziando a parlare. Un punto di passaggio importante è stato il Pulitzer, che ha vinto Il sussurro del mondo, poi un altro punto è per quanto riguarda il mondo anglosassone, che è un libro totalmente al di fuori della science fiction, un libro letterario puro, né più né meno, che era un qualcosa di strano per l'epoca. E allo stesso tempo, per dire, in Italia, che siamo un po' alla periferia di questi movimenti, se vediamo infatti negli ultimi anni, quindi un po' dopo, per esempio si citava prima di questa notizia, si citava Tasmania, per esempio Giordano, che è uno dei nostri scrittori più importanti quantomeno a livello di vendite, si è cimentato in un libro ambientato nel contemporaneo in cui è pienamente comunque climate fiction, o almeno nell'accezione che io intendo climate fiction. È un libro in cui la questione climatica è centrale. Paolo Di Paolo, con Romanzo senza umani, ieri era in Cinquina lo strega, un libro comunque in cui la questione climatica è centrale. Sono testi che prima del saggio di Gosch non sarebbero mai esistiti, perché appunto scrittori di quel, forse Giordano ci sarebbe arrivato comunque perché viene da uno scienziato. Paolo Di Paolo probabilmente non avrebbe mai scritto un libro del genere. Allo stesso tempo autrici come Ursula Le Guin, per esempio, che è una delle autrici cult della fantascienza e di tutta una serie di altre cose, tra cui studi legati al femminismo e al genere, però qui la citiamo per la fantascienza, è stata riscoperta adesso, per esempio in Mondadori gli ha fatto una bella collana nuova negli Oscar con cui stanno ripubblicando i libri, anche i saggi stanno essendo pubblicati da Sur, se non sbaglio, c'è un po' di novel vague legato a questo, è però una novel vague, appunto, come si diceva prima, la bombetta, molto circoscritta, persone che si interessano già di questi argomenti e quindi non è propriamente ciò che tu entri in libreria e vedi. Cioè la percentuale, se tu entri in una libreria, comunque la percentuale di libri in cui esiste la questione climatica dentro, magari anche che non abbia importanza, ma esiste, sono una percentuale minima. Il che secondo me è assurdo, perché dal mio punto di vista qualsiasi libro ambientato nell'oggi, nel contemporaneo, dovrebbe avere anche una parte legata alla questione climatica, ma magari anche proprio solo uno sfondo, cioè, ma semplicemente io esco di casa e c'è un caldo bestia, oppure esco di casa e c'è un caldo bestia e poi arriva una tromba d'aria, ma perché è quello che succede normalmente. Invece la gran parte dei libri comunque perpetuano un po' il modello di romanzo tradizionale borghese che si è formato, che ha tutta la sua storia molto importante e che ha prodotto un sacco di capolavori e continua a produrli, però una storia molto più legata alle vicende personali, le vicende di coppia, le vicende di... E questa cosa è come se molti scrittori non riuscissero un po' a interpretarla, la vedessero in antitesi. Sì, poi Gosch faceva un'altra riflessione riguardo a questo, che il romanzo borghese si sviluppa cercando di razionalizzare l'imprevedibile o l'improbabile, e che in un momento in cui l'improbabile invece diventa regola, cozza. Quindi l'osservazione interessante che faceva lui era proprio il limite culturale, il limite della nostra immaginazione per affrontare il cambiamento climatico. Quella secondo me è una delle parti più acute in assoluto dello scritto di Ghosh, perché effettivamente è quello il problema. Cioè il problema, e questa cosa si traduce nel fatto, nel momento in cui tu stesso a livello cognitivo non riesci a cogliere quello che sta succedendo e quello che succederà, perché è troppo grosso attorno a noi, e quindi noi stessi non riusciamo a farlo o non pienamente, e dobbiamo anche attuare delle strategie di sopravvivenza. Non è che possiamo pensarci tutti i giorni moriremo tutti, no, perché ovviamente dobbiamo vivere normalmente la nostra vita. Io, questa reazione alla morte, all'apocalisse. E allo stesso tempo, appunto, non è stato neanche sviluppato più tanto un linguaggio adatto a descrivere determinate cose. Non mi ricordo chi è che dice, cioè, nel senso, la sfida, appunto, sempre Ghosh diceva, ma è quella, è rendere poetica, appunto, rendere poetico lo scioglimento di un ghiacciaio, ed è quasi impossibile. È una cosa, appunto, che nel libro di Paolo Di Paolo, di cui si diceva prima, lui cerca di fare in un certo modo, con risultati narrativamente, secondo me, insomma, però quantomeno è un tentativo. E quindi è proprio quella, cioè il problema è che se comunque hai difficoltà anche cognitive a cogliere un determinato fenomeno perché è troppo onnicomprensivo, figurati poi a scriverne, che vuol dire una razionalizzazione di qualcosa che devi aver già razionalizzato, quindi è un doppio passaggio. Però sì. Allo stesso tempo, io non mi ricordo in quale delle lezioni americane, però Calvino diceva non possiamo lasciare come scrittori agli scienziati il monopolio della spiegazione della realtà. Certo. E adesso, cioè, mi è tornato in mente ora, non c'è senso. Però, cioè, secondo me lo vediamo molto. Ma infatti, ma è proprio quello, ma anche perché comunque tendenzialmente le storie dovrebbero servire anche a rendere più semplice un messaggio, cioè ogni storia, che sia letteraria, che sia un film, che sia un videogioco, comunque ti veicola qualcosa, nel bene o nel male, anche se non lo vuoi, e tendenzialmente da che mondo è mondo, una storia narrativa, tu sei portato ad andare avanti per empatia con i personaggi, perché ti appassiona quello che viene raccontato, perché ti intrattiene, perché ti intrattiene, perché ti diverte e via, però allo stesso tempo tu il tuo cervello coglie determinate cose, quindi la narrazione è potentissima da questo punto di vista, che è quello che diceva appunto sul fatto che non puoi lasciare monopolio agli scienziati di questa cosa. Via. Allora, un altro un altro dei temi molto che a me hanno colpito molto del tuo romanzo riguarda la parte, se vuoi, più politica, no? Poi magari l'ho percepito solo io, però dalle storie di Salim Barthez, dalla storia anche del commissario De Santa, da un'altra storia che non citerò perché sennò vi spoilerò praticamente tutto il romanzo, esce molto fuori il contrasto fra il sociale e il personale, no? Fra il sociale e il privato, quando tu fai una lotta politica, no? Nella presentazione di Napoli tu facevi riferimento a Salim Barthez, no? Che a un certo punto si confonde, cioè esiste un Salim Barthez privato, Salim Barthez è tutto il simbolo degli antagonisti, no? Ma il commissario De Santa lo vive profondamente questo contrasto, la vive profondamente questa contraddizione, e da persona che, cioè, io non ho mai militato, però ho frequentato ambienti di militanza, e comunque appunto nel prossimo futuro mi troverò ad affrontare determinate scelte da questo punto di vista, perché appunto facciamo qualcosa oppure qua va tutto a scatafascio, appunto questo contrasto, questa contraddizione che si può creare fra il sociale e il privato è un tema che secondo me deve essere sviluppato dalle persone che entrano in questo mondo o che si vogliono impegnare. Volevo chiederti se gli elementi che riguardano questo contrasto, che sono presenti nel libro, tu li hai ricavati da tue esperienze, li hai ricavati da una riflessione tua, se è un tema che hai messo volutamente oppure l'ho solo letto io nella mia solitudine di lettore. No, beh, sicuramente il libro io credo che sia profondamente politico, cioè che abbia una linea politica molto forte, o comunque spero, cioè comunque che si legga con, appunto, per intrattenere, per divertire, eccetera, ma comunque che ci sia questa linea politica, comunque l'obiettivo era quello. Già la copertina è un annuncio. Il contrasto tra il personale e il pubblico in una società anche come la nostra, quindi figurati in una anche del prossimo futuro, è enorme. Qualsiasi persona attuale, quindi anche nel prossimo futuro immagino io, che vuole avere un ruolo pubblico, che vuole agire sulla società, non può davvero avere un privato, oppure può averlo però a costo di... Nel libro si dice fin dall'inizio che i ricchi, quello che veramente distingueva i ricchi, oltre a poter avere, oltre a poter essere andare in montagna quando volevano e vivere in montagna per molti periodi dell'anno, che è una zona in cui si viveva sicuramente meglio rispetto alla pianura surriscaldata, è il fatto di poter costruirsi la privacy, perché la persona comune non ce l'ha questa privacy. Invece il ricco può, perché è ricco, crearsela in qualche modo. E quindi fin dall'inizio, cioè tutto anche il giallo si basa su questo, nel senso che l'assassino non riesce a essere trovato all'inizio proprio per il fatto che questa persona molto ricca ha disattivato tutte le telecamere attorno proprio per privacy. E una persona non così ricca non avrebbe neanche potuto farlo, probabilmente. E se tu hai un ruolo poi come un ruolo di Selim Barthez, che è un po' di capopopolo se vogliamo, ovviamente non puoi avere, non puoi pensare che ci sia davvero un privato, per quanto poi ce l'abbia anche lui. Questa è un po' purtroppo la mia idea, che oggi come oggi comunque tu devi che siamo un po' costretti a mettere sempre anche il privato in piazza, e tanto più un leader o chi vuole essere un leader, perché quello che cerca la persona comune, non capisco io tanto come mai, però è così, è anche un rispecchiamento, vedere quello che c'è dietro le quinte, no? Poi magari è tutto falso, però lo vede, quindi sicuramente c'è questa cosa. Ma poi, allora, un concetto è quello che io ho cercato di fare, è che in un mondo come questo, che è un mondo in cui le cose vanno un po' peggio di adesso, è un mondo in cui io ho cercato di portare a compimento determinate dinamiche e un po' al punto di frizione delle altre dinamiche, in modo che tutta una serie di questioni che io vedo nella nostra società siano più evidenti, ok? Essendo più evidenti, quelli che devono reagire a queste situazioni, quelli che vogliono reagire, anche loro le fanno in maniera più evidente. E infatti io, il motivo per cui non sono tanto d'accordo con il discorso di distopia, è perché secondo me la distopia è una storia in cui tutto è negativo. Però secondo me in questo mondo in cui tutto è negativo c'è una grandissima luce di positività, che è il fatto che le persone, avendo poco da perdere, meno da perdere rispetto a noi, sono più combattive, stanno attrezzandosi, stanno agendo per cercare di una soluzione. Certo. Quindi per quello secondo me non è solo una distopia, per quanto ci sia ovviamente dentro. Quindi non so se ho risposto alla tua domanda, però secondo me cercato di ma io lancio il sasso, poi quello che succede poi a un certo punto blocca no, sereno. E, un'altra domanda circa l'ambientazione. Ora tu non sei di Milano, mi hai detto, vabbè, vivi a Milano da probabilmente più di metà della tua vita, mi verrebbe da pensare, però sei originario di Treviso. Allora, all'interno del romanzo si capisce da alcuni elementi, non è parte centrale della storia, però ci sono alcuni elementi di contesto anche sulla situazione della nazione, no? L'Italia di fatto è una landa desolata, in particolare c'è una descrizione proprio delle coste venete, tra l'altro queste coste venete totalmente in balia delle zanzare, ormai completamente sommerse dal mare, cioè in rovina, che è il motivo per cui c'è un campo profughi di 100.000 persone alle porte di Milano, no? Tutti cercano di arrivare a Milano come un po' l'ultimo baluardo di salvezza. Da persona che a Milano non ci è nata e cresciuta, ma ci è arrivata e cresciuta, che significato ha avuto per te fare questa descrizione della città nel contesto un po' più ampio, più nazionale? Allora, la descrizione, cioè la dinamica per cui le persone cercano di entrare in città, è la classica dinamica del... inurbamento che vediamo un po' in qualsiasi paese in cui gli effetti del cambiamento climatico sono già più estremi rispetto a quelli attuali, ma che vedevamo anche nel passato, quando c'è stata anche in Italia. È una dinamica abbastanza normale. Io ho voluto un po' appunto calcare anche lì la mano, sempre per quello che si diceva, se il futuro può essere un po' negativo, molto negativo, moltissimo negativo, lì ho calcato abbastanza la mano, anche se sinceramente non credo così tanto. Le coste verdi di cui c'è un personaggio in particolare di cui non abbiamo parlato finora, che è un ragazzino, un ragazzino croato di seconda generazione che è arrivato con i genitori, anzi non di seconda generazione ma quasi, perché è nato comunque nei Balcani ma è cresciuto a Lido di Jesolo, che è arrivato appunto con i suoi genitori in Italia più o meno in questi anni, alla fine poco dopo questi anni. Poco dopo questi anni loro hanno iniziato a lavorare in spiaggia a Lido di Jesolo, non so se avete contezza, però è una grossa città che d'estate conta 300.000 persone, d'inverno 30.000, una specie di Rimini, però un po' più a nord, con questi palazzoni semigrattacieli sulla spiaggia, questa grossa spiaggia di sabbia dove d'estate ci sono campeggi, tedeschi, gente di tutta di questo tipo, insomma. Ed inverno diventa una città pseudo fantasma. Okay, già adesso è così, come perché è una città molto estesa, dove però gli abitanti in realtà sono pochi. E questa famiglia si adatta a vivere in spiaggia, a vivere lavorando con il turismo, se non che con l'innalzamento dell'acqua la sabbia viene mangiata. E questa è una cosa che è molto probabile che succederà, perché già adesso tutta la costa veneta è sotto il livello del mare, nel senso che non è a zero, come zero sul livello del mare, è a meno 5, meno 10, via dicendo. E in molti posti di quella costa ogni primavera, questo già quando ero un ragazzino io, portano con i camion ogni Pasqua la sabbia, prelevandola tipo dal Greto del Piave, da alcuni fiumi, comprandole via per ricostruire la sabbia per la stagione estiva. Quindi non è così peregrino pensare che basta davvero un piccolo innalzamento dell'acqua perché sia sommersa la spiaggia, quantomeno che non ci sia più. Jesolo c'è ancora nel libro, semplicemente non c'è più la spiaggia. Il problema qual è? Che una città come Jesolo è una città che smette di avere funzione nel momento in cui smette di avere la spiaggia, perché è una città che non esisteva. Infatti è Lido di Jesolo. Jesolo città è un paese a 8 km più nell'entroterra, dove infatti i nostri avi l'avevano fondato perché non arrivavano le mareggiate, paese di 10.000 abitanti di campagna, appunto. Okay. E poi ha questa propaggine tipo 10 km più in là, in mezzo niente. Il concetto è che se una città come questa ha un'unica funzione, nel momento in cui smette per dei motivi esterni di poterla avere, scompare, non esiste più, e di conseguenza questo personaggio poi viene portato scappa, perché non sa cosa fare, ha 18 anni, vuole costruirsi un futuro e cerca di entrare a Milano, fondamentalmente. Quindi non credo di aver risposto alla tua domanda, però ho contestualizzato un po'. Per quanto riguarda me, ovviamente dentro ci sono un po' tutta una serie, quantomeno nei luoghi, ho voluto metterci dentro luoghi che conosco bene, quindi oltre a Milano, che copre la gran parte del libro, su cui io appunto vivo qui da 20 anni e ho abbastanza idea che spesso quando sei un forestiero che entra in una città riesci anche a vedere determinati aspetti che ogni tanto chi ci vive sono preclusi, poi altre cose chiaramente non le puoi sapere, però soprattutto alcune, cioè, non avendoceli sotto gli occhi all'inizio è tutta una scoperta, no? Certo. E quindi ci presti più attenzione, soprattutto se ti piace muoverti. A me è sempre piaciuto molto. E per il resto, cioè, gli altri due luoghi importanti del libro sono, da una parte, appunto questo, che però è quasi soltanto all'inizio, questo di Jesolo svuotato, e poi c'è tutta una parte ambientata sulle Dolomiti Venete, che è un po' il contraltare, perché in questo mondo chi può permetterselo è andato in montagna, o quantomeno ci vive molto, e quindi molti luoghi di montagna, quelli meno impervi, perché sennò lì ci sono altri problemi, sono stati succubi, hanno subito urbanizzazione abbastanza, non dico selvaggia perché alla fine sono soltanto cose fatte da architetti molto fighe, molto belle e via, però e hanno cambiato totalmente il punto di vista sociale. Quindi questi sono un po' i tre poli del libro, quello della città, che è dove accadono le cose, quello del mare, dove non accadono più le cose perché non esiste più la costa, e quello della montagna, che è dove c'è l'escapismo, dove chi può permetterselo se ne va. Allora io ti farei la mia ultima domanda, che riguarda proprio la scrittura, se vuoi. Allora, una cosa, io appunto l'ho letto due volte questo libro, quindi, e in verità, cioè, entrambe le volte ho dovuto constatare come, cioè, alla fine è un libro che è di 500 pagine, però è un libro che si legge abbastanza bene, ecco, e la spiegazione che mi sono dato io in modo molto prosaico è che ha una scrittura che io, cioè, ho cercato una parola fra me e me, ho definito seriale, no? Cioè simile, se vuoi, ad una serie televisiva, se vuoi, molto rapido, molto, molto fresco, poi vabbè, per carità, è molto bello quello che scrivi, però secondo me c'è questa caratteristica di una scrittura che scorre molto bene, tra l'altro una scrittura che scorre talmente bene che è in grado di sostenere una struttura abbastanza complessa, dove ci sono tre piani temporali che si intersecano, insomma. Volevo chiederti se questo modo di scrivere che tu hai l'hai adottato per scelta, o hai dovuto forzarti, oppure è dovuto magari a stimoli esterni, a tuoi riferimenti letterari. Mi fa piacere che tu l'abbia colto. Intanto sulla scrittura c'è stato tanto lavoro, nel senso che tutta l'ultima riscrittura è stata tutta stilistica, fondamentalmente. Quella delle 200.000 battute in meno è stata quasi tutta una riscrittura di tipo stilistico, per cercare di togliere punti morti, per cercare di aumentare il ritmo, proprio perché sapevo che sto chiedendo comunque tanto a un lettore per 500 pagine, certo. Quindi volevo che si andasse avanti con un certo piglio. In secondo luogo, la struttura gialla, quindi l'indagine, io volevo che fosse non soltanto un pretesto, ma l'ossatura del libro, e quindi ho cercato di, per quanto raccontare tutto quello di cui abbiamo parlato, quindi descrivere molto eccetera, di far sì che di tenere un certo stile che fosse anche uno stile legato al genere giallo, thriller, crime, quindi uno stile molto visivo, molto dialogato, in cui accadevano cose, cioè volevo, cioè, la mia idea è che il lettore non, io odio i libri in cui il lettore si annoia, anche se sono bellissimi, cioè il lettore deve non annoiarsi tendenzialmente, quindi avevo un po' il terrore che potesse annoiarsi, e quindi ho cercato di lavorare in questo senso, poi appunto non sono io a dire se è riuscito oppure no l'operazione, però questo era l'obiettivo. La scrittura che ci tu di tipo seriale, secondo me dipende, lo sono totalmente inventato, sì sì, no, ma dipende dal fatto, secondo me, che è una scrittura abbastanza visiva, nel senso che è molto basata sulle descrizioni dei luoghi e sui dialoghi, quindi i due aspetti della scrittura sono luoghi e dialoghi fondamentalmente, mentre ho cercato, e questo soprattutto nell'ultima riscrittura, di togliere il più possibile gli imboccamenti e i personaggi, cioè di esplicitare il meno possibile il pensiero dei personaggi, soprattutto del protagonista, perché la focalizzazione è sempre attaccata a lui, quindi tu sai soltanto quello che vede lui e basta, e nei capitoli in corsivo quello che vede il ragazzino che scappa da Jesolo. E però ho cercato di far sì che il lettore vedesse le cose senza raccontargliele. Questo è stato un po' il lavoro, soprattutto nell'ultima versione, quindi togliere quasi tutte le spiegazioni che lui si dava, certo, e cercare di far sì che arrivasse. Questo è stato un po' il ragionamento. E allo stesso tempo, per far vedere questo mondo, io avevo tante possibilità, chiaramente, un mondo che non esiste, quindi devi raccontarlo in qualche modo, perché il lettore non ha riferimenti. Se tu ambienti un libro nell'oggi, tu puoi benissimo non fare descrizioni, perché tu dici, sono uscito l'altro ieri, ho attraversato Corso Sempione, basta. Cioè tu hai in mente più o meno quello che può accadere, e anche se non conosci Corso Sempione hai in mente che oggi attraversi una strada grossa e probabilmente ci sono delle macchine attorno, un semaforo, e lo attraversi. Se invece lo fai nell'immediato futuro, tu devi dare dei riferimenti in qualche modo, per evitare il più possibile che fossero delle spieghe, che è il male assoluto dei libri secondo me, io ho cercato di farle vedere, cioè ogni luogo è visto, certo. Cioè si racconta il luogo con determinati tocchi in modo che tu possa, infatti il primo capitolo, tranne il prologo, il primo capitolo è un lungo percorso, è un percorso che fa il nostro protagonista da l'inizio della Martesana a Via della Moscova e noi vediamo quello che sta succedendo per far vedere un po', per cercare di accompagnare il lettore dentro questo mondo, che si renda conto subito che non è il mondo di adesso ma è anche simile in realtà, certo. Quindi che abbia dei riferimenti, che sono riferimenti reali, i nomi delle strade, i palazzi, le cose, però che siano leggermente stranianti perché ci sono dei droni, perché ci sono i droni in fila in attesa, ci sono i droni delivery in fila in attesa sui locali, c'è la Martesana che arriva fino in centro città e non viene interrata, e tutte queste piccole cose che ti fanno subito, cioè che dovrebbero farti subito rendere conto che siamo in un mondo questo ma anche altro, certo. Quindi hai fatto, ok, domande dall'esterno? Io ho una domanda, prima dicevi una cosa molto interessante, la questione, l'eredità della distopia è un po' quella che, insomma, hai una responsabilità, no? Come scrittore di dover in qualche modo offrire o meno spiragli di speranza o di soluzione anche, no? Cioè Ursula Le Guin, per esempio, è letta molto come propositiva nel fornire queste utopie in cui tutto funziona, in cui... Ma rispetto invece alla... perché poi ti sei spiegato, hai detto che tu hai una certa moda, ma rispetto alla ricezione, leggevo per esempio la recensione del manifesto del tuo libro ed è interessante perché poi vedi come, diciamo, diverse testate con diversi interessi o priorità leggono poi nella tua storia la presenza di speranza o meno, di che tipo, no? E il manifesto mi sembrava di aver capito ed essere molto la dimensione politica come la chiave. Cioè, hai altri, non so, aneddoti rispetto alle presentazioni, qualcuno che ti dice è un libro molto positivo, un libro molto... senza... Sì, sì, no, purtroppo sì, nel senso che io ero convinto appunto che fosse un libro con un messaggio anche di speranza abbastanza forte, che fosse un libro comunque che avesse una chiave positiva, e poi in realtà andando in giro, parlando con i lettori o anche con i non lettori, tipo, io ho incontrato una serie di persone che mi hanno detto no, ma io vorrei leggerlo, però in questo periodo leggere delle cose così pesanti non assolutamente no. Ho detto, cazzo, è un giallo, nel senso, alla fine, cioè, la storia alla fine è una storia gialla. E mi sono reso conto, e questo appunto si torna al discorso della bombetta e della bolla, che appunto un qualcosa che io avvertivo come normale, nel senso, viviamo in un mondo in cui la crisi climatica è in atto, ci saranno vari stratagemmi, varie possibilità per conviverci, e boh, è semplicemente, è uno dei problemi, è il problema della nostra epoca, appunto. E invece mi sono reso conto che c'è proprio un meccanismo di rimozione, mi sono reso conto, lo sapevo anche prima, ma non pensavo con delle attuato da persone con cui potevo entrare in contatto grazie ai libri, che tendenzialmente è già una minoranza del paese. Cioè, molti avevano un po' di rimozione, nel senso, ah guarda, è già tutto così negativo che io proprio qualcosa che mi fa vedere la nostra città in questo modo, oppure una città in questo modo, non voglio proprio toccarlo. Quindi questo sicuramente sì. Poi no, la cosa invece, poi la cosa bella è che appunto avendo vari piani di lettura, credo, quindi avendoci varie trame al suo interno, a seconda dei luoghi in cui andavo a presentarlo o i presentatori stessi, si parlava più di politica, più di clima, ma io ho fatto varie presentazioni in cui non abbiamo mai toccato l'argomento climatico, per esempio, mai, ma solo quello politico. In altre presentazioni in cui l'argomento politico non è mai stato toccato, altre presentazioni ancora in cui si è parlato quasi solo di genere, del giallo, di crime e via dicendo, e questa è stata un po' la cosa un po' più arricchente, al di là del fatto che per me è anche più divertente perché poi le presentazioni sono tutte molto diverse, Ma per esempio con lui l'ho presentato al Covo della Ladra, che è una libreria specializzata appunto in genere giallo, fantastico, horror, ed è stato molto bello per questo. Invece in altri luoghi abbiamo parlato più di lingua, via. Quindi questo sì, questo assolutamente. E il discorso politico, cioè chi l'ha visto molto, e come dicevo prima, in realtà è stato il motivo per cui mi ha spinto a scrivere questo libro, proprio il discorso politico, non quello climatico, non quello, proprio il discorso politico in sé, e altri che poi l'hanno, non dico bypassato, però era uno dei lati della storia. Questo è molto bello, secondo me, appunto, vedere, cioè, quando poi parlo con le persone, vedere questo. E anche poi quando, come conta che mi hai detto, la Chiesa dell'Apocalisse, in ogni presentazione c'è un personaggio o un aspetto che colpisce particolarmente, quindi poi okay. viene approfondito quello, anche a seconda del luogo in cui si è. Presentazione a Trento, ovviamente, abbiamo parlato abbastanza del discorso della montagna, via dicendo, altre presentazioni. Abbiamo, per esempio, a Roma non abbiamo quasi mai parlato di Milano, abbiamo parlato della metropoli, del okay. concetto di metropoli, del concetto dell'urbano in generale. Quindi anche questo è molto. A Milano, ovviamente, la gran parte delle presentazioni a Milano, soprattutto le prime, vertevano particolarmente su Milano. Poi il libro è uscito in concomitanza con una serie di saggi, tra cui quello che c'è lì di Licia Tozzi sulle dimensioni. Esatto, in cui c'era tutta una, diciamo che l'argomento Milano, il Milano nel futuro, la deriva di Milano era abbastanza sentito, e quindi anche le prime interviste, tutte le prime, cioè i primi discorsi attorno al libro sono stati legati a Milano. Poi io mi sono molto attivato, sinceramente, anche perché affinché ci fosse una lettura un pochino più, cioè uscendo un po' anche dal localismo, perché è vero che Milano è fondamentale in questo libro ed è importantissima ed è la base, non sarebbe esistito questo libro senza Milano, non potrebbe essere messo da un'altra parte, però appunto ci sono anche altre tematiche. Infatti poi nell'ultimo anno in cui appunto presentazione a Milano, poi nelle ultime 6 mesi, 8 mesi non l'ho mai fatte, ma l'ho fatte da altre parti, poi sì, sono stati affrontati altri temi, per fortuna. Grazie. Altro? Va bene. Allora, Michele, grazie mille, grazie, spero vi sia venuta voglia di leggerlo, che era il mio obiettivo minimo. Bella. Un applauso! Grazie. Regaliamoci. Grazie. Molto bella, grazie. Si può leggere un pezzo? Ah. Sì. Tu che l'hai appena riletto, appunto. Allora, io, in verità, prima quando tu hai detto, hai fatto riferimento all'inizio, cioè sì, nella presentazione di Napoli, tu dici che l'idea di scrivere questo romanzo ti è venuta in mente proprio ai giardini di Porta Nuova, sì, e che hai ripreso quella scena all'inizio. Tra l'altro là mi sono reso conto che in quella presentazione tu avevi ancora la crocchia, e ho detto, ah, forse questo De Santa, allora, cioè, ci dice qualcosina anche di Michele Turazzi. Peraltro, vuoi sapere la cosa più divertente da quel punto di vista? In realtà è il contrario, nel senso che io lì, quando ho iniziato a scrivere questo libro, avevo i capelli più corti di adesso. Ah. Poi, poi i capelli si sono allungati come tutti durante il Covid. Certo. Okay. E quindi io, lui aveva già la crocchia, però. Quindi in realtà è stato proprio il contrario. Cioè lui aveva la crocchia e poi a un certo detto, punto... Ti sei trasformato nel punto. Non fumavi e hai iniziato a fumare. Fumavo, poi ho smesso. Però, ah, sì, okay. Sì. Però no, a me, piacendo questa cosa, ho riletto l'inizio. Facciamo un pezzettino dell'inizio. Inizio. Quello, guarda, ti... Dov'è? Dimmi te. Allora, a me piaceva che questo finale qua, quindi non so dove... Dove possiamo attaccare. Ah, cavolo, però forse un po' troppo... Perché è un po' lungo. Forse da qui? Da qui. Vabbè, dai, iniziamo da qui, dai. Mi spiace per quelli che già pensavano di andare via, però... I grattacieli di Porta Nuova formavano una quinta teatrale, impedendo lo sguardo di procedere oltre, verso le cerchie interne. Parevano dire che non c'era bisogno di vedere altro per conoscere Milano, che bastavano loro e la loro opulenza. I raggi del sole si scontravano sulle vetrate, sfilacciandosi in centinaia di riverberi argentati, mentre la Martesana ci scorreva sotto senza fiatare, come se non volesse disturbare chi lavorava nelle coworking house. All'altezza di Via Pola, le terrazze dei locali si allungavano sull'acqua stagnante, con gli ombrelloni vaporizzatori che cercavano invano di rinfrescare i dehors. Il vociare dei manager, che pranzavano con qualche schifezza ipocalorica, si mescolava al rullare delle ruote sull'asfalto e gli ansiti dei runner lungo la sponda. Davanti all'ingresso dei ristoranti, gli inserventi preparavano le buste in carta riciclata con i rispettivi loghi in bella vista, mentre i droni delivery attendevano in file ordinati, simili a tante piccole nuvole che punteggiavano il cielo blu. Fu in quel momento che avvertì una strana vibrazione nell'aria, qualcosa che non riusciva a cogliere del tutto, ma che era indubbiamente reale, quasi la percepiva nella sua solidità materica. Le torri che si allungavano nel cielo, la riva del naviglio zeppa di gente, le zanzare che banchettavano sulla carne appiccicaticcia, il sole colpiva implacabile, faceva sudare, annebbiava la mente. La Martesana adesso si incuneava sotto la serra sospesa, una lastra di cristallo sopraelevata che correva tra una torre e l'altra, con il suo intrico di rampicanti, per poi costeggiare il parco incastonato dai grattacieli. Non era abbastanza ampio, né aveva un numero sufficiente di alberi per rinfrescare l'aria, che infatti restava torrida. Oltre il giardino, il naviglio si immetteva in un tunnel per sbucare in via San Marco. Qui tutto diventava più stretto, il viale sostituito da una stradina in pavé, i grattacieli da palazzina a tre piani. Pure la Martesana sembrava rimpicciolirsi. La risalì, finché non sbucò al cospetto del bacino di San Marco, una distesa d'acqua inaspettatamente limpida. Avranno attivato i nuovi depuratori, si disse, nella speranza di salvare almeno il centro dall'invasione delle zanzare. E a quel punto dovette farsi strada quasi a spallate. L'acciottolato che costeggiava la Darsena era invaso di persone che andavano nella stessa direzione. Lui seguì il flusso. Via Fate Bene Fratelli era bloccata da una massa che non permetteva di muoversi, né verso i giardini di Porta Venezia, né dal lato opposto verso Parco Sempione. C'erano urla, cori, megafoni che stridevano, ma era impossibile cogliere cosa venisse scandito dal corteo, e anche gli striscioni erano troppo lontani per essere d'aiuto. Nel cielo, appena un paio di metri sopra le teste di tutta quella gente, ronzava una schiera di droni segnalatori. La loro scocca d'acciaio inossidabile riluceva al sole. Per un attimo restò lì, indeciso e vagamente intontito, poi preferì tornare sui propri passi. Si sedette sull'unica panchina libera di via San Marco, accanto alla conca dell'Incoronata. Non passò neppure un minuto prima che una donna gli si avvicinasse e gli chiedesse se poteva accomodarsi a sua volta. Lui non rispose, ma le fece spazio. «Un altro corteo», disse la donna. «Aveva i capelli al naturale, completamente bianchi, come andava tra un certo tipo di sciure che abitavano in un certo tipo di zone. Ormai ce n'è uno al giorno. Chi manifesta? Cambia qualcosa? Di chiunque si tratti e qualunque cosa vogliano non cambierà niente. Non cambia mai niente». Lui disse «Amen». Poi infilò una mano nella tasca dei bermude e ne tirò fuori un pacchetto di sigarette. La donna lo fissò. «È vietato!» In tutta risposta lui afferrò l'accendino, rigato di rosso e di nero, e sfilò una sigaretta dal pacchetto. «Non vorrà farmi ammalare!» Lui emise un sospiro, quasi un gemito, mentre tamburellava la sigaretta con il polpastrello. Alzò lo sguardo, lo ancorò agli occhi della donna ed estrasse il tablet da uno dei tasconi laterali dei bermuda, facendolo scivolare verso di lei. La donna abbassò gli occhi sul display, che si illuminò. Accanto a una fotografia, un suo primo piano che risaliva qualche anno prima, comparve la scritta «Commissario capo Alberto De Santa». «Ora si levi dalle palle», concluse lui, facendo scattare l'accendino. Questo passaggio preciso.